24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Atene alle prese con nuove misure di austerity, già annunciati 2 giorni di sciopero. I dubbi sul salvataggio della Grecia frenano le borse europee. Standard & Poor's taglia il rating a 7 banche italiane. Bentrovati da Roberta Pellegatta, un nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. In apertura, la Grecia ha le prese con le nuove misure di contenimento dei costi per fronteggiare la crisi economica e vedersi garantita la nuova tranche di aiuti. La Grecia ha varato una nuova manovra che taglia il numero degli statali e congela le pensioni. Aumentano anche i carburanti e arriva una super ICI sulla casa. I sindacati hanno immediatamente annunciato 2 giornate di sciopero generale, il 5 e il 19 ottobre, per protestare contro la manovra che arriva nel 3° anno di recessione del paese. Intanto il premier Papandreou ha deciso di andare a Berlino il prossimo 27 settembre per incontrare il cancelliere tedesco Angela Merkel e la Confindustria, per assicurare che questa volta Atene è decisa a fare tutto quanto promesso. L'incontro arriva 2 giorni prima alla discussione del fondo salva stati al Bundestag, senza di cui la BCE non potrà continuare ad acquistare bond. I tempi sono sempre più stretti. Vittorio Darolda, Radio 24, il Sole 24 Ore, Atene. Standard & Poor's ha tagliato il rating di 7 banche italiane, tra cui Intesa San Paolo e Mediobanca, in seguito alla decisione di ridurre il giudizio sull'Italia. In particolare, secondo l'agenzia, il taglio del rating si è reso necessario per allineare al livello dello Stato, appunto da più ad A, quelle banche che hanno almeno il 40% dei propri asset sul mercato domestico. E in Italia sarebbero allo studio nuovi tagli. Dopo quella lacrime e sangue appena varata, una nuova manovra sarebbe già all'orizzonte. Il Tesoro si starebbe infatti preparando a fronteggiare l'eventualità, sempre meno remota, di una crescita economica più bassa del previsto. Secondo l'agenzia Radio Core, i tecnici di Via 20 Settembre sarebbero già al lavoro per individuare nuove possibili spese da tagliare per una cifra che oscilla fra i 5 e i 10 miliardi, ma sarebbero allo studio anche interventi su pensioni e rendite catastali per reperire risorse da destinare al rilancio della nostra economia. Della situazione italiana oggi è tornato a parlare il Fondo Monetario Internazionale, confermando tutte le sue perplessità. Per l'Istituto di Washington, le difficili dinamiche politiche in Italia causano incertezza anche sull'andamento dei conti pubblici, mentre sarebbe necessario mostrare unità politica per convincere i mercati che non ci sono problemi. Più in generale, l'FMI avverte che la crescita globale rallenterà e stima in oltre 200 miliardi di euro l'impatto che la crisi del debito in Europa ha avuto finora sulle banche del vecchio continente. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Intanto, nuova giornata di cali per le borse europee. Chiusura negativa per le borse europee, preoccupate per la situazione della Grecia e in attesa di indicazioni su eventuali nuovi stimoli all'economia da parte della Federal Reserve, la banca centrale americana. Parigi ha così ceduto l'1,6%, Francoforte il 2,4%, mentre a Milano ieri il FTSE MIB ha lasciato sul terreno l'1,65% e lo share l'1,37%. Sul listino di Piazza Affari crollano Fiat, meno 6,2% dopo il taglio del rating da parte di Moody's, e Mediaset meno 5,3%, penalizzata dalle incertezze sul governo. Da inizio aprile il titolo del Biscione ha bruciato più della metà della propria capitalizzazione, per la precisione del 63%. Sedute in profondo rosso anche per le banche, con Intesa San Paolo a meno 3% e Unicredit a meno 2,6%. In controtendenza Fiat Industrial più 3,3%, grazie alla conferma dei target 2011. Ceo Condina da Radio Corp per Radio 24 e Sole 24 Ore. Adesso andiamo nell'Oceano Indiano, dove una nave della Marina Militare Italiana ha sventato un attacco dei pirati ad un mercantile greco. Questa volta i pirati è andata male, anche se la nave che avevano tentato di sequestrare sta bruciando e andrà sicuramente persa. I pirati avevano attaccato la notte scorsa il mercantile Pacific Express, proprietà greca, bandiera cipriota, a 200 miglia a sud-est delle coste del Kenya, in pieno Oceano Indiano. All'arrivo dei pirati, l'equipaggio di 26 persone è riuscito a rifugiarsi all'interno della nave e a dare l'allarme. Un'allerta raccolta dal cacciatorpediniere Andrea Doria, che incrocia nella zona nell'ambito dell'operazione NATO Ocean Shield. Alla vista della nave italiana, i pirati sono fuggiti, dando fuoco al cargo, mentre l'equipaggio è stato portato in salvo sull'Andrea Doria e verrà trasferito nelle prossime ore nel porto di Mombasa. Oltre che alle operazioni della NATO, l'Italia prende parte anche alla missione Atalanta, approvata dall'Unione Europea e presente nell'area dal dicembre 2008. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Sì, allo Stato palestinese, ma non chiedendo all'ONU di riconoscere lo Stato con capitale Gerusalemme. Così Barack Obama nel suo discorso alle Nazioni Unite. Genuine peace can only be realized between the Israelis and the Palestinians themselves. And I am convinced that there is no shortcut. La pace in Medio Oriente può essere raggiunta solo dagli israeliani e dai palestinesi attraverso i negoziati, ha detto il presidente degli Stati Uniti. Sono convinto, ha aggiunto Obama, che non ci siano scorciatoie per mettere fine ad un conflitto che dura da decenni. La pace è un lavoro duro e non verrà attraverso risoluzioni delle Nazioni Unite. E Barack Obama ha parlato anche della situazione in Libia, ringraziando diversi paesi europei, ma dimenticandone uno. Una cosa è chiara, scandisce il presidente degli Stati Uniti durante il discorso all'Assemblea Generale dell'ONU. Il futuro della Libia è nelle mani dei libici. È stato il popolo libico ad abbattere il vecchio ordine, saranno i libici a costruire la nuova nazione. Il presidente annuncia il ritorno della bandiera americana sulla sede diplomatica di Tripoli e vola sulla regione intera, invocando il dialogo tra le nazioni. Ribadisce che i palestinesi hanno diritto a uno Stato, ma devono ottenerlo attraverso il dialogo con Israele. Parla di Turchia e di Siria, alternando carota e bastone nei fronti caldi che si moltiplicano nel Mediterraneo. Poi passa ai ringraziamenti e dice che in Libia il sostegno militare è stato assicurato soprattutto dagli alleati europei. E li cita Regno Unito, la Francia, la Danimarca, la Norvegia, nazioni che hanno condotto la maggior parte degli attacchi, spiega. Scandisce i nomi delle nazioni e non dimentica la Lega Araba, che ha assicurato la sponda diplomatica nella regione, e poi la Tunisia e l'Egitto per gli sforzi fatti per assorbire il disastro umanitario. Chi si aspetta dal presidente la parola Italy attende invano. Nessuna citazione del contributo di Roma in un elenco dettagliato. Obama, è vero, parla a braccio, ma ha ottima memoria e a volte un vuoto dice molto più di tante parole al vento. Gigi Donelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. In chiusura andiamo in Afghanistan. Sulla figura di Rabbani e sul futuro del paese, Laura Bettini ha intervistato Pino Arlacchi, che dopo anni di esperienza alle Nazioni Unite ora è vicepresidente della delegazione del Parlamento Europeo per le relazioni con l'Afghanistan. È un professore universitario di teologia, un uomo mite, non meritava assolutamente questa fine, ero stato a casa sua proprio l'anno scorso. E diciamo che lui, nonostante fosse un anti-talebano per formazione e per carriera politica, era un uomo che aveva capito che la soluzione in Afghanistan è soltanto in un'apertura delle trattative e in una formazione del governo internazionale. Io fui rimasto sorpreso quando gli chiesi: ma allora che cosa vuoi fare con i talebani? Lui disse: non c'è altro modo che per uscire da questa crisi che mettersi d'accordo intorno a un tavolo. E invece è stato ucciso e il colpo è notevole. Beh sì, il colpo è notevole perché il problema dell'Afghanistan è che manca un tessuto intermedio in grado di mediare le trattative di pace. Rabbani era senza dubbio la personalità più importante in questo sottile strato che si interpone tra Karzai e i suoi da una parte e i talebani dall'altra. Quali alternative possono esserci a questo punto? A questo punto l'alternativa di una mediazione internazionale si riaffaccia con l'ONU o con anche personalità individuali o con paesi che si fanno avanti e dicono: ci mettiamo noi a mediare. Oppure la strada interna di una trattativa fatta soltanto tra componenti afghane. Io, di la verità, tenterei di fare tutte e due: lasciare campo libero alla trattativa interna, mettendo un paio di paletti, la proibizione di qualunque attività terroristica di Al-Qaeda nel paese, e poi una minima piattaforma di diritti umani, di salvaguardia dei diritti delle donne. La componente internazionale di questa trattativa sarebbe la salvaguardia di questi due paletti. Poi lascerei gli afghani decidere il loro destino. Ed è tutto per questa edizione di 24 ore in Europa. Grazie a Mauro De Angeli in regia e a voi per l'ascolto. Un saluto da Roberta Pellegatta. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.